È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, bene, vediamo se stavolta funziona. Eccoci qua, che cosa vuoi sapere? I problemi tecnici che ci sono tra Strasburgo e Milano. 800 24 00 24. Speriamo nella vostra pazienza, naturalmente, nell'attendere l'inizio della zanzara con Mario Mauro. Buonasera. Proprio Mario Mauro? Sì, capogruppo del PDL qui a Strasburgo. Quello che vedete sempre in televisione quando Berlusconi viene a Strasburgo, a Bruxelles, l'hai al già suo detta fianco questa, l'hai già detta. C'è comunque sempre il signor Mauro? Sì, sempre il signor Mauro. L'ambasciatore all'estero al Parlamento Europeo. Vicepresidente del Parlamento Europeo. Quindi vabbè, siamo suoi ospiti qui praticamente. E tutti chi si chiedono, chi è quel signore a fianco all'onorevole Mauro? No, cioè nel senso conoscono più Mauro. Non credo. È buona, vabbè, subito buona. Su Bagnasco, dai, su, vai veloce su Bagnasco, rappresentante, insomma, cattolico. Vabbè, Mauro. La CEI vi ha mollato. Lei è cattolico, la CEI vi ha mollato, ha usato delle parole durissime. Bagnasco, c'è un'aria. Vabbè, lo sappiamo, l'ha detta ieri. No, l'ha detta ieri, però vanno ripetute. Ripetile. I comportamenti non sono solo contrari al pubblico decoro, ma intrinsecamente tristi e vacui, dice Bagnasco. A che cosa si riferisce, secondo lei, diciamo, tra le storie che sono emerse in questi giorni? Parenzo, mi sembra di ricordare che lei non sia cattolico. No, beh, che c'entra? Diversamente Posso dovrebbe... Diversamente dovrebbe ricordare che Santa Romana Chiesa non abbandona mai i suoi figli. Cioè, e nemmeno Berlusconi? Nel modo più assoluto. Che significa Santa Romana Chiesa non abbandona mai Berlusconi? Cioè, non abbandona i suoi figli? Che la misura della realtà che ha la Chiesa è la misericordia. Dunque, alla fine perdonerà Berlusconi se avesse commesso dei peccati, eccetera, eccetera? Voglio dire che il perdono, che è un'esperienza trascendente attraverso la quale è Dio stesso che entra in rapporto con la libertà dell'uomo. Siamo su Radio 24, non Radio Maria comunque. Per carità di Dio, allora ogni tanto un mixage. Del resto avete problemi tecnici, non ho mica detto. Oggi solo l'aiuto del Signore ci può salvare oggi comunque. Dobbiamo essere semplicemente consapevoli di questo, che quello che dice la Chiesa non ha mai uno scopo politico. Lei dice, comunque, sono profondamente convinto. Vede Mauro, l'immagine del paese è fiaccata, ognuno è chiamato a comportamenti responsabili e nobili, la storia ne darà atto. Poi l'aria, com'è l'aria? L'aria è irrespirabile, bisogna purificare l'aria. Guarda, io vorrei anche che qualcuno desse atto del fatto che qualche giorno fa, quando si continuava a sottolineare l'aspetto giudiziario di queste vicende legate a Berlusconi, mi sono permesso di dire che Berlusconi non ha bisogno di un giudice. Ah, quindi perché adesso ce ne lamentiamo? Perché ha bisogno di un prete, secondo lei? Per convertirsi? No, perché la tendenza da parte di alcuni settori dell'opinione pubblica di tramutare i peccati in reati può costituire un pericoloso precedente per il valore, l'esperienza e la democrazia. No, voglio dire, perché ha bisogno di un prete, Berlusconi? Perché ho detto, semmai, laddove ritenesse che quelli dichiarati a mezzo intercettazioni o accuse precise secondo lei da parte peccati, settore dell'opinione pubblica. Secondo lei sono peccati? Su questo non avrei dubbi. Ah, sono peccati sicuramente. Per chi ha l'esperienza del cattolicesimo, senz'altro. Senz'altro. E lei l'ha già detto una volta, ma ripetiamolo, di fronte a quello che legge quotidianamente, lasciamo da parte il fatto se è giusto pubblicare o non è giusto pubblicare, poi magari ne parliamo. Come si sente da cattolico? Sconvolto? Utilizziamo un'espressione. Imbarazzato, sconvolto. Vomito, nausea, secchezza delle fauci. No. Assolutamente consapevole. Assolutamente consapevole di una cosa sulla quale inviterei a riflettere tutti quanti. Cioè, mentre tutti oggi tendono a dire che di qua c'è il bene e di là c'è il male, chi è cristiano sa che il bene e il male sono insieme presenti nella stessa persona. Tutto qua. Ah, cioè e il bene e il male richiamo, sono... Il richiamo che fa la Chiesa anche in questa circostanza vale per me. Cioè a scacciare il diavolo. Cioè il bene e il male sono presenti in Berlusconi. Cioè dentro Berlusconi ci sono il bene e il male. Ma il diavolo... In ogni persona. Certo. Come in ogni persona. E ogni persona fa il bene e fa anche il male. Ma la signora D'Addario è il diavolo? No, che c'entra? No, nel caso di specie dei racconti che sono emersi. Cioè, queste donne sono il diavolo, il diavolo tentatore. Queste rappresentano il diavolo tentatore o no? Guardi che queste persone, proprio perché hanno uguale dignità, esattamente come il Presidente del Consiglio e il sottoscritto, hanno lo stesso problema e quindi devono in qualche modo rispondere all'appello di Bagnasco allo stesso modo. Traffico, torniamo subito, sperando sempre nella, no? Nell'aiuto. Ma qui il traffico lo vediamo in Italia o a Strasburgo? Interessante anche sapere, no, il traffico è in Italia, sperando nell'aiuto divino con intercessione del signor Mauro, sì. Speriamo ha che la tanti linea problemi regga. Anche i soldi di cui vero, non, che non la linea di Radio 24. Siamo qui, 18:49, in diretta da Strasburgo per la Metropeo, la Zanzara, 800 24 00 24. Siamo con Mario Mauro, PDL. Finora, secondo lei, la Chiesa è contenta di quello che ha fatto Berlusconi? Per le ragioni della Chiesa, per le posizioni della Chiesa, eccetera, eccetera. Ma io credo che gli anni di governo Berlusconi si sono caratterizzati per una evidente simpatia per una serie di politiche che trovano riscontro nella dottrina sociale della Chiesa. Però adesso è successo qualcosa, però. Evidentemente è successo qualcosa. Cioè, questa storia anche del crocifisso, dicono questa storia del crocifisso e della Minetti, ma questo, da quello che risulta da alcune intercettazioni, da cioè alcune ricostruzioni. Questo non ho letto. Tu leggi le intercettazioni? Questo è un livello, credo, al momento di pure illazioni. Sì, ma è ancora una ricostruzione, ma non nemmeno quello, supportata. Quello da... che a me preme sottolineare, che io credo che questo giudizio fatto dalla conferenza episcopale dal cardinale Bagnasco, che era chiaramente rivolta a Berlusconi, diciamo la verità, sì, in questo non c'è dubbio. No, se legge tutto il testo, io credo che sia un giudizio su questo tempo della transizione, chiamiamolo così, sulla Seconda Repubblica, nella sua interezza, e spiego anche perché. Però nessuno ne... Beh, no, però Mauro, qui dice i comportamenti licenziosi e le relazioni improprie, cioè parla di fatti di cronaca da, no, le cose che legge dai giornali. Perché giustamente... Infatti poi dà una stoccata anche ai giornali dicendo... Perché giustamente lei, Parenzo, prende di peso dal testo di Repubblica quella parte. Però la voglio mettere in evidenza che il cardinale Bagnasco, che ha parlato anche in altre circostanze, anche in questa, dell'uso politico della giustizia, sa bene una cosa, che questo tempo di transizione non si è compiuto perché ha avuto come metodo della politica il linciaggio dell'altro. Ora, noi possiamo concludere la Seconda Repubblica con il linciaggio definitivo di uno delle due parti, oppure possiamo riconoscere, per esempio, che Prodi e Berlusconi... Sì. Sono stati comunque anche in positivo il modo con cui noi siamo venuti fuori da un difficilissimo momento che è stato la crisi del comunismo, il momento... Che c'entra Prodi? Culminante. Lei dice che dovrebbe essere riconosciuto qualcosa a Prodi e Berlusconi, cioè si potrebbe uscire con un salvacondotto politico da questa situazione, per esempio attraverso... Io penso che, come è nelle istituzioni della nostra Repubblica, bisognerebbe riconoscere che Prodi e Berlusconi hanno espresso in positivo... Sì. Sia una tendenza politica, sì, un'aggregazione sui generis, come esempio Lega, Alleanza Nazionale, Forza Italia, che è stato lo sdoganamento della destra. La nascita dell'Ulivo, che è l'idea di far collaborare comunisti e come e bisogna riconoscerlo questa cosa, i due? Per esempio, penso si possa riconoscerlo riconoscendogli la dignità e l'onore di senatori a vita dentro la Repubblica. Senatori a vita, Prodi e Berlusconi per chiudere la Seconda Repubblica. Cioè, per far capire che questo pezzo della nostra storia non può essere demonizzato. Noi non possiamo pensare di aver vissuto tutto male. Cioè salvare... Lei pensa che in questo modo, con Berlusconi senatore a vita, la pressione delle procure potrebbe essere inferiore, potrebbe essere più... come dire, no? Io ricordo a tutti che quando arriva la proposta di Cossiga di fare senatore a vita Andreotti, su Repubblica l'editoriale in prima pagina di Scalfari parlava di Andreotti come Belzebù. E questo di sacrestia ancora più dei discorsi di Bagnasco. Ma questo lo si potrebbe fare subito? Non vedo perché non si possa fare un bilancio sereno della nostra storia. E poi nei tempi e nei modi, perché queste sono prerogative che non spettano a me, ma ad un'altra istituzione, cioè Napolitano, la Presidenza della Repubblica, sì, prendere in considerazione quella che, attenzione, non vuole essere una boutade. Io ho assistito a un momento pubblico e ufficiale di riconoscimento reciproco, per esempio tra Prodi e Berlusconi, quando nel 1999 fu nell'aula del Parlamento europeo Silvio Berlusconi a diciamo dare il via libera alla candidatura di Romano Prodi a presidente della Commissione europea. Dunque Berlusconi senatore a vita, diciamo, sarebbe anche un po' al riparo, diciamo, Berlusconi senatore dalla magistratura, dagli attacchi, non più presidente del Consiglio ma senatore a vita. Non credo che sia questa l'ottica nella quale io ho fatto la mia proposta. No, questa è una subordinata. Riconoscere che Prodi e Berlusconi, questo... Berlusconi e Prodi, mettete nell'ordine che volete, sono la nostra storia di questi anni. D'accordo. Misconoscerla è un errore. La nostra storia bella e brutta, no? Certo, perché la storia è sempre dentro, ho capito, il bello e il brutto. Questa roba qui è una roba che assicura un po' a Berlusconi di un po' di respiro rispetto a quello che sta, rispetto all'accerchiamento. Ma no? Non credo che Berlusconi abbia questo tipo di problema. Beh, non penso che lo viva come tale. Fioccano indagini, come dire, Napoli, boom, Roma, Milano, tum, tum, tum. E mi permetta, Parenzo, quando lei arriva a una trentina di processi, il fatto che ci siano 30 processi a carico di una persona per incanto nati dal momento in cui ha vinto la lotteria per la presidenza del Consiglio, no, ma chiaro, appunto, diventa questo senatore dà maggiore credibilità o minore credibilità? Ma appunto, Berlusconi senatore a vita, le procure si placano. O no? Ma non è la mia proposta una proposta che può interessare le procure. No, è una proposta, la politica. È una proposta che interessa. Bene. Il tentativo di riconciliazione di un paese. Si potrebbe fare anche da subito. Allora, il vescovo di Grosseto, Babini, ha detto che Vendola pecca più di Silvio. No. Lei è d'accordo? Guardi, esattamente, perché io sono sempre stato contro le ingerenze della Chiesa nei confronti dello Stato. Okay, dello Stato nei confronti della Chiesa non commenterò questa sua proposta. Beh, non è una proposta, in realtà, è una considerazione. È un anatema, sembra, più che altro, no? No, il vescovo Babini ribadisce un principio fondante della dottrina della Chiesa, Duca, ma appunto non è la mia materia. Duca, non è la sua materia, nel senso che non è un suo settore di competenza. No, faccio politica e quindi sono qui per rispondere a interrogativi. Senta, la signora Began, che è una frequentatrice di Berlusconi, dice che a Berlusconi le donne gli fanno veramente perdere la testa. Lei che lo conosce bene, non da quel punto di vista, ma è davvero così? Io ho avuto la possibilità di condividere col Presidente del Consiglio molti momenti assolutamente sottoposti a un self-control strabiliante. È vero che una volta la Merkel, quando lo... tra i due, che rapporto c'è? Adesso non abbiamo tempo, purtroppo abbiamo perso dei minuti, se no le facevo raccontare dei rapporti tra la signora Merkel. È vero che una volta lo ha accolto in un modo particolare. Se lei tenta di farmi dire che la signora Merkel ha fatto perdere la testa a Berlusconi, ha sbagliato in dire. Anche perché, come dire, no, ci sono delle espressioni utilizzate, no? Le ritiene credibili quelle espressioni di Berlusconi nei confronti della Merkel? Ma qual era? Io non mi ricordo mica. Mai uscite fuori ufficialmente. Culone inchiavabile, cioè questa. No. Nel modo più assoluto non penso che neanche questo possa esistere. E tra i due che c'è un rapporto di un po' di odio, cioè no, di odio. La Merkel non sopporta Berlusconi, dica la verità. Un rapporto di stima profonda. A dopo, Giornale Radio. Siamo qui, caro Parenzo, sempre in diretta da Strasburgo, la Zanzara. Bonsoir. 800 24 00 24. Bonsoir a tout le monde, bonsoir. Andiamo a sentire i titoli del TG3, subito. Va ora in onda il TG3 di Bersani. Berlusconi nel mirino del Tribunale del Riesame, sapeva che le ragazze portate ad Arcore erano escort. Scarcerato Tarantini, l'inchiesta passa a Bari. Prima da Napolitano, poi da Berlusconi, faccia a faccia tra Tremonti e il Premier, incontro definito positivo, ma il governo è battuto alla Camera. Tensioni nel centrodestra dopo il monito di Bagnasco sul degrado della politica, l'appello della Chiesa ai cattolici, etica e maggiore impegno. Il PDL accelera sulle intercettazioni in aula, alla Camera tra pochi giorni il testo con divieti più severi, nel mirino anche internet. Sulla crisi e scontro tra Europa e Stati Uniti, intesa nell'unione sulla Tobin Tax, la Merkel e la Grecia sulla buona strada, volano le borse. A Roma protesta degli operai Fiat di Termini Imerese, traffico in tilt e il sindaco Alemanno blocca il corteo. In Messico una cronista torturata e uccisa dai narcos scatenati contro la libera informazione, più di 80 giornalisti assassinati dal 2000. La sera ormai è fresco, ma ogni tanto sento ancora una zanzara. Maledette zanzare, sono più inutili dei democristiani. Mio figlio inizia a parlare. Beh, addirittura più inutili dei democristiani, mi sembra. Maledette zanzare. Non lo so. Questo è Fabrizio Moro, mi hanno detto che hanno ripescato una canzone dove ci sono le zanzare di mezzo, più inutili dei democristiani. Maledette zanzare. Andiamo a sentire però la polemica innescata ieri dal signor Alemanno con risposta di Mantovani qui alla Zanzara. Nuovo macello abbiamo organizzato, eh? Sì, involontario, però siamo abbastanza contenti di questo. Non credo gli elettori in generale del PDL o comunque i vertici del PDL. Alemanno aveva detto in un convegno, in un comizio, eccetera, mai più Minetti nel partito. Mi pare una cosa anche ragionevole. Vabbè, sentiamo. Ma noi dobbiamo trovare un meccanismo per non avere più candidati in liste bloccati, calati dall'alto. Il che, scusatemi se lo dico, ma non riesco proprio a reggermelo, significa mai più Minetti dentro un consiglio regionale o altre realtà di questo genere. Perché in questo modo noi offendiamo, in questo modo noi offendiamo il popolo libertà e anche Silvio Berlusconi. Offendiamo Berlusconi che ha messo la Minetti, questo l'abbiamo già detto ieri, è un po' bizzarro. Risposta del signor Mantovani, Mario Mantovani, coordinatore del PDL Lombardia: la moglie di Alemanno è nel listino. Dunque un paragone abbastanza esplicito tra Isabella Rauti, militanza nella destra, figlia del signor Pino Rauti, figlia di Pino Rauti, storico dirigente del Movimento Sociale, eccetera eccetera, insomma, Isabella Rauti come Nicole Minetti. Boh. Alemanno, insomma, mi pare che nel listino della Regione Lazio forse ha messo sua moglie, quindi non credo che sia proprio il più titolato a dover fare queste osservazioni. Se diciamo che non dobbiamo più mettere dall'alto nei listini persone vicine qui e là e su e giù, cioè voglio dire, mi pare che la candidata Minetti sia stata una candidata di tutto rispetto. Bendola ce l'ha con noi, non si capisce perché, ma ce l'ha con noi. Con noi chi? Con noi, con le Zanzare, sempre. Ah, già! Signor Bendola, dai in onda, risolveremo in tribunale con Fede l'autore della trasmissione, che può essere io, insomma. Non Bello. Capisco perché se la piglia con me, attacco signor Bendola. Attacco duris, Vendola, attacca Cruciani. No, ma non c'è motivo. E ha ragione. Ma come ha ragione? E ha ragione lui. Ma come ha ragione? Denunziamo tutti. Ma come ci tanto sentilo, non capisco perché no, se la prende con me, ma non sa, anche con Fede. L'ironia anche pesante è consentita. Vabbè, ma non voglio sì, l'ironia entrare. Pesante di cattivo gusto non deve finire in tribunale. Niki, ti prego, ascolta questa narrazione. C'è un aspetto, diciamo, che sarà risolto in tribunale di questa questione con l'autore di quella trasmissione e con, non chi con Fede. E anche con chi è intervenuto in quella trasmissione. La sera ormai è fresco. Bendola ce l'ha con me, vabbè. Ma, con noi in realtà, autori, non lo so. Se. Forse no, tu ti salvi perché sei più leftist. Sì, sei più de sinistra. De sinistra. Sei più de sinistra. No, ma non c'è da signor Cruciani, non c'è. Che è successo? Non che è successo? Bravo. Dopo vi presento una persona che naturalmente è entrata senza il permesso. Beh, tanto il Popolo della Libertà fa quello che cazzo della Libertà gli pare. 800 24 00 24. Brunetta, venderei il patrimonio dello Stato. Basta Unione Sovietica in Italia. Ma come? Brunetta. E vendere. Com'è che? Il patrimonio improduttivo dello Stato io lo venderei subito, il capitale morto, lo venderei subito, case, caserme, io venderei tutto. Altra cosa è gli asset del capitale mobiliare delle aziende sì. quotate in borsa, che si vende quando i prezzi sono buoni, ma anche quando se i prezzi sono buoni io venderei anche quello. È inutile possedere quote non certo. in più di quelle strategiche di Eni, Enel, Poste Italiane oppure Finmeccanica, eccetera eccetera. Non abbiamo bisogno dell'Unione Sovietica in Italia. L'Unione Sovietica in Italia mi sembra un paragone un po' azzardato e esagerato. Cretino. Cretino. Vendere tutto, vendere. E basta. Giovanardi, imprudenza quella di Romano di fare il ministro. Domani ci sarà il voto di sfiducia. Questo è Giovanardi. Questo è Giovanardi. È stato imprudente Romano a fare il ministro. È la prima volta che Romano. Sono d'accordo con il signor Giovanardi. La prima volta in vita mia. Anche qualcun altro è d'accordo qui, però poi la interpelleremo. Io credo che l'imprudenza vera che abbia fatto l'amico Saverio Romano è che nel momento in cui il pubblico ministero aveva chiesto di archiviare, dopo anni di indagini, tutte le accuse nei suoi confronti, la sua imprudenza è stata quella di accettare di fare il ministro. Però è ironico, me l'hanno messo così, secondo me è ironico. Mi sembrava strano di essere d'accordo con Giovanni. Mi stavo preoccupando con me stesso. Va bene, 800 24 00 24. Che c'è su Bagnasco? Abbiamo già dato su Bagnasco. Questa sembra la Zanzara, no? No, dico. Cioè, Scalfari, la Chiesa si è schierata, ma Berlusconi non va via neanche se lo chiede Gesù. Questo non è male. Il professor Scalfari. Eugenio. Cade una barriera, cioè la Chiesa italiana si è schierata. Ora, io sono un laico, non mi piacciono le interferenze, non mi piacerebbe che questo induca Berlusconi a dimettersi, ma tanto questo è un evento, se anche venisse Gesù Cristo in terra e glielo dicesse, lui non si dimette, fino a quando Scilipoti lo tiene su. Eccoci, eccoci qui, 800240024, ma che serata, cari ascoltatori, se restate attaccati qui alla Zanzara con tutti questi problemi tecnici, siete degli eroi. Siamo a Strasburgo. Tira fuori il corno rosso, dai. Come il corno rosso? Si mette in testa quella cuffia. È già vestita di rosso. Quando ho sentito che c'erano problemi, sono entrato nello studio perché da questo momento ci saranno. Infatti sono aumentati i problemi. Da quando l'IVA, che non è la partita IVA, ma è IVA. Ma nemmeno l'IVA che è aumentata. L'IVA che è aumentata, è entrata in studio. Adesso siamo al 21%. Si metta le cuffie. Allora, volevo parlare, io porto bene. Ricordatelo. Ho capito, ma mi sembra adesso non è che sia andato bene. Berlusconi, noi Berlusconi, te pareva. Non è che Berlusconi dovrebbe calmarsi un po'? Calmarsi in che senso? No, ma lei ci crede, per esempio, alle cose che sono uscite fuori? Io non ci credo personalmente, anche lui ha smentito. Posso dire una cosa? Che c'erano 11 e se ne è fatte 8. Lei ci crede? Posso dirti che io non leggo più nulla? No, ma non è possibile. Non ci credo, non ci credo. Le intercettazioni, queste cose, davvero, sono ormai la gente, sai che è stanca. Ma anche questa è stanca, non legge più. Ma anche la storia della Patonza deve girare, lei ci crede? Quella è una battuta che io spero tanto ardentemente che l'abbia detta proprio, perché è bellissima. Ma cos'è la Patonza? Ah, è bellissima, questa è interessante. È bellissima questa cosa. Sì, mi ha fatto tanto ridere a me. Non so se l'ha detta lui, non credo, perché è un uomo raffinato, ma io lo posso dire. È una roba di Agnelli. Sì, forse gliel'ha rubata, sì. Che la Patonza deve girare, è bellissima. È bellissima. Sai perché la Patonza, al mio paese, è un piatto? Sì, ho capito, però in quel caso non è proprio inteso come piatto buonissimo. Culinario. Secondo lei invece cos'è che deve girare nel lessico berlusconiano? Guarda, tu sai come la penso su Berlusconi, come io lo stimi, come lo apprezzo. Però ha fatto il suo tempo, come lei ci ha detto prima, durante la pubblicità. Tu sei sciocco, perché io non mi permetterei mai di Zanicchi, due punti, Berlusconi torna a Catua. Possiamo fare un titolo così? No, mai. Non è vero. Allora? Dai, Crociani, di la verità. Non è vero. Berlusconi, ho detto, se ne andrà quando vorrà. Non va più via. No, io voglio dire che lui è un uomo che ha una forza morale grandissima. No, morale. Morale, perché quello che ha sopportato, che sopporta, io per esempio non riuscirei, davvero, col carattere che ho io, mi sarei messa sotto il ponte a piangere. Ma perché è bella l'espressione la Patonza deve girare? Espressione bellissima, perché? No, perché mi ricorda questo piatto. È una cosa democratica. Perché no? Questo piatto nostro. È un piatto gustosissimo. Ma non parlava di quello, parlava di un'altra cosa. Ma sei sicuro che non parlava di perché quella è bella Patonza? Perché l'ha trovata Ma perché uno, se è generoso, condivide, no? È questo, perché è bella la condivisione, appunto, per quello che dico io, la democrazia. No, se tu fai un piatto speciale come la Patonza, che è questo piatto lo devi far assaggiare solito, a tutti. Di solito lo facciamo in estate, in piazza, invitiamo tutti. Ha fatto la Patonza in piazza? Sì, e tu ti mangi la Patonza. È buonissimo. Onorevole Zanicchi. No, ma comunque, che c'entra? Un piatto? Ma che sciocco. Comunque, vi dicevo che oggi è stata perché una giornata. Perché è generoso, lei dice, no? E dunque, quello che lui ha deve condividere anche. Su questo non si discute. Allora, mi dica un regalo che lei ha fatto, qualcosa che dimostra la generosità di Berlusconi nei confronti di Vazzanicchi. Mi dica lui è stato sempre molto carino e molto generoso con me. Devo dire, io ultimamente non l'ho frequentato molto, non ho avuto mai. Aveva molto da fare. Quanto sei? Ma io non parlo adesso di Vazzanicchi in politica, io parlo quando lavoravo con lui nelle aziende sue. Ed era un uomo davvero generosissimo, molto presente, ti aiutava, se tu veramente aiutava tutti. Su questo questo lo sappiamo. Devo dire che oggi è stata una giornata molto intensa, perché io ho lavorato tantissimo, sono anche stravolta, sono stanca, vengo da un incontro che non ero mica solo io, eravamo vertice internazionale, tenuto da un cardinale Ravasi. E che diceva questo cardinale Ravasi? Non ha parlato di Berlusconi, ma qui a Strasburgo ha parlato della Bibbia, e ha parlato in un modo meraviglioso, delle citazioni coltissime, perché era estremamente colto. Poi mi è piaciuto quando ha cominciato a parlare di musica, volevo alzarmi e mettermi a cantare. la potenza e la bellezza della musica. Ma allora ha citato Bach. Ecco, però la CEI ultimamente non è molto tenera con Berlusconi. No, non con Berlusconi, con tutti noi, ma anche con loro stessi. Con Berlusconi. Ma io direi che anche loro predicano per i loro preti. Ah, lei dice. Cioè? Certo, che richiamano all'ordine anche tanti preti. Cioè, devono stare zitti. No, voglio dire, ci richiama, la Chiesa è un suo dovere di richiamare tutti i suoi figli all'onestà, a ritrovare i valori veri della famiglia. Vogliamo fare una cosa, siccome lei dice la musica religione è importante, no? La musica è importante. Vogliamo fare canto. Una canzone dedicata un po' a quello che appare... ed è evidente il tramonto di Berlusconi, il sipario che si chiude, c'è un po' il tramonto, un po' non sappiamo quando avverrà, eccetera eccetera. Però che canzone... qual è la canzone ideale per il tramonto di Berlusconi? Amore, io non vedo tramonto. Vabbè, quello io che vedo sarà... l'alba. Ma no, l'alba no, l'alba non lo può vedere. 240 anni il tramonto, dedichiamo una canzone al tramonto. Qual è la canzone più bella che si può dedicare al tramonto di una persona, che sia lunghissima? Sei l'uomo per me, fatto apposta per me. Vabbè, questa è mica questa tramonto. È il tramonto. No, è l'uomo per noi, è l'uomo ancora per tutti noi. Può ancora essere l'uomo per noi. No, ma noi ne abbiamo chiesto. Questo non è il tramonto, però, ma io non lo vedo sto tramonto. Ma c'è il sipario, c'è il sipario chiuso ormai. Il sipario è chiuso, è rimasto soltanto. Ragazzi, uno io dico una cosa: è un uomo che da 15 anni batte e che lavora. Vabbè. E che è stato un grande politico. Ma questo lo sappiamo. Però c'è certo, un tramonto in per c'è... me è stato un grande statista. Lo poteva essere ancora di più. C'è una fase conclusiva. C'è una fase se questi ultimi qual è la canzone la sigla finale se non... è stato talmente calluniato. Vabbè, ma adesso amore, lei fa questa difesa spada siamo tratta. All'apologia siamo ma all'apologia dai. Però io le voglio chiedere una cosa: qual è la canzone perfetta per un tramonto dignitoso? Tu lo so, io so cosa vorresti che cantassi. Cosa? Eh? No, non bisogna so. Saper perdere, no, non sempre si può vincere, e invece lui continuerà a vincere. Vabbè, questo lo vedremo, questo lo vedremo. Desiderato della sai cosa ti dico la canzone ideale. No, ti dico una cosa orrenda che questa non la dovrei dire, diciamo. Sì. Secondo me, sì, io non sì. sento Berlusconi da una vita, l'ho sentito perché? A Natale, perché non... Vabbè, e lui c'è sempre. Vabbè, d'accordo. Ecco. Allora, diciamo una cosa orrenda. Mi piacciono le cose sì, orrende. È una cosa orrenda. Berlusconi, secondo me, ha dato tanto e ha fatto tanto. Però? E ci ha creduto. Però? Allora, se lui, secondo me, è una cosa stupida, sì. ma secondo se lasciasse in questo momento, dove tutti fate a gara per infangarlo, tutti, tutti, anche i suoi, anche, allora, i suoi, anche quelli allora? Che gli è più... Ma che immagine potrebbe lasciare quest'uomo dopo tutto quello che ha fatto e quello che ha dato? Deve dimostrare ancora di poter fare. E deve rimanere lì, ancora un po'. E questa sarebbe la cosa cattiva. Vabbè, ma il tramonto, una canzone per il tramonto, questa sarebbe la cosa cattiva. Ma quale vai che ti canti? Che una canzone per il tramonto. Per la chiusura del sipario, per la fine di un'epoca, per è la finito. Fine di un'epoca, quale è potrebbe tutto essere? Finito. Allora è questa, sempre delle mie colleghe. Sì. Senza fine... Come senza fine? Fine. Come fa senza fine? Come la fa? Sai, la prosegue, sì, no, non ma lo come sappiamo. Fa senza dai, fine? È una canzone della Vanoni. Non oso cantarla. No. No, sto pensando tra le mie se c'è una canzone che possa dedicare sì, al tramonto, alla fine di una gloriosa, fine dignitosa. Io le ho tutte molto tristi, per esempio c'è la notte dell'addio, ma no. Come? No, quella è buona, quella è buona, quella è buona. Quella è la sigla finale del quella è buona, quella è buona, quella è buona. La notte dell'addio, canta Iva Zanicchi. Sarà la notte dell'addio quando molto vecchi, molto anziani io e lui saremo in qualche ricovero e io gli canterò all'orecchio questa canzone. La notte dell'addio, quando sarà? La notte dell'addio. Il buio dentro e intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota, il sole inonderà, ma tu non ci sarai e tu mi mancherai. Addio. Questa voglio dire, brutta bestia. Questa è buona, la canzone per il tramonto di Berlusconi, by Iva Zanicchi, grazie. No, a presto. No, come no, vabbè, ciao. Guarda, non ci vengo più da voi. Come non, questa volta devo dire non ero invitata, mi sono autoinvitata. Vi voglio bene, mi siete simpatici, però insomma, piattatela che adesso è ora la gente non ce la fa più, non ne può più. Ma di che cosa? Di Berlusconi? Di parlare male di Berlusconi. Ma forse anche di Berlusconi. Ma come la gente non ne può più? Ma che ne sa lei? Voi non ascoltate. È una difesa spada. Perché a questo punto la gente non ci crede neanche più a tutte queste dicerie, a queste no, maldicenze, calunnie, calunnie. Adesso vi presento una persona, chiamatemi quella persona che sapete a Roma, chiamatemi quella persona chi che è? Sapete a Roma. Ah, sì. Aspetta, personaggio aspetta. Incredibile. 800 24 00 24, Andrea da Brescia intanto chiamatemi quella persona, Andrea da Brescia, resti qui. Andrea, dica. Va bene. Allora, velocissimo, un minuto circa. Sì, premesso sì, che vedo Berlusconi come il fumo negli occhi. Ciò premesso... Sì. Mi sembra che la Chiesa, a essere molto parchi, dal concordato al caso Welby, abbia una statura morale tale, soprattutto perché prende circa 1 miliardo di euro in tasse degli italiani, gli ha firmato un concordato con lo Stato, dunque... anche una statura morale che non permetta determinate esternazioni, questo sia che sia contro Berlusconi, che sia contro la sinistra. Libera Chiesa sì, ma in libero Stato, tutto qui. E dunque non ha alcun titolo morale per criticare Berlusconi, scusi Andrea. Esatto, ma come non avrebbe nessun titolo morale per criticare, per mettersi a fare campagna politica per la lei, come sta per la legge 40, come è stato per l'Edumale Inglario quando Berlusconi e la Chiesa erano a fianco, quindi... Bisogna essere coerenti, la Chiesa non va tirata per la giacchetta solo quando conviene. Questo è giusto. E questo è della destra e della sinistra. Grazie. Gennaro da Latina, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Niente, io ho sentito una proposta abbastanza indecente, che praticamente... la proposta indecente è dal signore da Strasburgo, che dice che vuol fare senatore a vita il signor Berlusconi. Io già precedentemente, quando qualcuno portava avanti la campagna, un attimo solo, lei lo farebbe senatore a vita, Presidente della Repubblica? Un attimo solo, Gennaro. Signora... Ma io fino a qualche anno fa l'avrei fatto Presidente della Repubblica. E perché adesso? No, beh, adesso lui non credo che... Perché non Presidente dell'ONU, magari, già che ci siamo, no? Segretario generale dell'ONU. Guarda, il Presidente della Repubblica non ce lo vede più. Come mai non ce lo vede più? No, perché non credo che lui... Solo perché non vuole lui? Sì, certo. Non per quello che disse Petri una volta. Sai che disse Petri una volta, no? Immagini i corazzieri a girare, a inseguire le dorline... Il Quirinale, corazziere a cavallo. Iva Zanicchi è svenuta, basta, non ce la faccio più. No, sentiamo questo ascoltatore che Gennaro, è molto saggio, sì, che dice, voleva dire che tu come scusa, appena detto che no, non lo so perché sta che si era prospettata la cosa di cambiarlo e farlo andare al Quirinale, ma lei si rende conto, diciamo, a quale persona mettevamo al Quirinale? E adesso noi il signor Berlusconi c'ha una sola cosa, praticamente noi abbiamo creduto in lui, invece lui è andato là soltanto per farsi i fatti privati, i fatti suoi. Ora noi gli chiediamo soltanto una cosa, che vada via e mette un'altra persona, perché noi ne abbiamo già, cioè praticamente... Vabbè, Gennaro, lei chiede che Berlusconi si dimetta, non mi pare una cosa così strana. C'è gente che chiede a Berlusconi di andare via da 15 anni, abbia pazienza. Che il governo vada a casa. Io desidero che il signor Berlusconi faccia la vita per l'età che ha, in parole povere, si ritira a vita privata, diventa un pensionato in grazia di Dio, senza dare fastidio più a noi altri, a tutti noi 56 dare fastidio, dare fastidio, dare fastidio è forte, però. Grazie Gennaro. Sergio, provincia di Lecco, buonasera. Non c'è più Stefano da Modena, anzi no fermi, Pippo Franco, buonasera. Buonasera, come sta? Ma Pippo Franco, grazie. Pippo, sei tu proprio? Sì, sono Iva Zanicchi. Ciao Pippo, come stai? Ciao, benissimo, grazie a te. Grazie, beh, sono con questi due, guarda. C'è c'è Parenzo che è diventato un esperto di questa canzone. La facciamo risentire questa canzone da Milano. Mandatemi questa canzone che è diventata una mezza sigla nel nostro programma perché cita la zanzara. Anzi, le zanzare a un certo punto. Te la ricordi bene, no Pippo? Io sì, benissimo. Aspetta che te la mando da Milano, se la ritrovano. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Com'è che fa Pippo? Mi offri tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma cos'è sto chi? Spiegami un po' che cos'è sto chi. Cioè è il... Che cos'è chi co? È onomatopeica. È quello che senti. È chi co, non devi farti altre domande. Infatti non me le faccio, scusa. Il problema è che sono io che è un anno che canto sta cosa, amico mio. Chiude il bagaglino, è una cosa già annunciata, no Pippo? In che senso chiude il bagaglino? No, chiude il bagaglino, ho letto da qualche parte. Sui giornali, oggi, è finita un'epoca. Giù il bagaglino. Ci sono molte distorsioni. Il bagaglino, il Salone Margherita, teatro, non chiude affatto. Anzi, continua con spettacoli anche piuttosto impegnativi, dei quali io in uno di questi spettacoli sono interprete, appunto, e anche autore. È Pingitore, che non è più presente al bagaglino perché ha avuto dei problemi con la come dire, con la direzione, con la gestione, e quindi è Pingidore che ha deciso di non fare spettacoli al Bagaglino, deciso, insomma, so che ha avuto dei problemi, cioè, il vecchio Bagaglino così come lo conosciamo, del Bagaglino, per così dire. Ecco, ma il vecchio Bagaglino così come lo conosciamo, ma ci sarà ancora o no? In che senso? Dal punto di vista teatrale o televisivo? Televisivamente no, già non c'è più da diversi no, anni. No, televisivamente no, teatrale. Teatrale non lo so, riguarda Pingidore, io faccio uno spettacolo di varietà che comunque non è la satira politica di Pingidore. Appunto, questo è il punto. E questo è il punto, no? Cioè ormai la politica è diventata talmente divertente che la satira rischia di rincorrere questi racconti Brava, politici, no? No, oggi non si fa più in tempo a mettere in scena quello che accade, perché i politici ci precedono arrivando addirittura a smentire quello che ancora non hanno detto, quindi come dire, per me è cambiato il linguaggio in qualche modo, anche se sarà presente come dire, indirettamente alla politica, perché lo spettacolo si intitola Bambole non c'è un euro. Ma chi è il Bambole più... non c'è un euro, ma chi è il più comico, Pippo? Oggi chi è il più comico? Questo lo dovreste stabilire voi, ma è una dura battaglia. Chi ti fa più ridere? Siamo a interpreti assoluti da una parte e dall'altra, siamo quasi tornati alla Prima Repubblica in termini di comicità. Beh, oddio, forse qualcuno dice che in realtà è proprio questa seconda, cosiddetta Seconda Repubblica, essere molto più comica della prima. La prima aveva una sua, no? Una sua dignità estetica. Con la prima avevamo non solo tempo di mettere in scena una cosa, ma vivevamo anche un mondo e un momento diverso. Adesso tutto si rincorre ed è diventato tutto così globalizzato che non dobbiamo cercarli solo nel nostro paese, i comici, ma mi pare che ci siano un po' dappertutto, eh. Senti Pippo, ma come lo vedi Berlusconi alla fine di un'epoca? Dammi un giudizio così un po' tranchant. Berlusconi è sempre stato alla fine di un'epoca. Quando è apparso in politica per la prima volta e sceso in campo, penso che pensasse lui stesso di avere un gruppo, una rappresentanza in qualche modo, viceversa ha occupato uno spazio che era stato lasciato libero, appunto. Oggi è finito o no? È finito un ciclo o no, Pippo, con Berlusconi? Non ho capito. È calato il sipario, è calato o no? Il sipario è il calato sipario, no, il sipario con Berlusconi sta sempre per calare, ma temo che non cali mai. E perché? Perché temi? Anche tu lo vorresti fuori dalle... Voglio dire, temo nel senso che sta sempre, è come un artista che vede un sipario che deve chiudersi, ma non si chiude mai, e quindi bisognerà prendere una decisione, e con Berlusconi non cala il sipario. Io non mi illuderei troppo, mi riferisco a coloro i quali si aspettano che il sipario cali. Ah, ecco, tu non sei tra quelli, mi pare di capire. E io sono fra quelli che sta a guardare la realtà. Lo spettacolo, sei in platea. Un sipario che non cala mai, mi auguro per lui che non cali mai, e temo per coloro i quali che desiderano che cali, che non cali mai. Senti Pippo, ma ci spieghi un attimo questa, non l'ha mai detto pubblicamente, questa amicizia con conoscenza, amicizia è una parola grossa, questa conoscenza con il signor Scilipoti. Ah, questo è curioso, che sì. Addirittura hai scritto un articolo sul giornale, sai Parenzo che c'è un giornale, no? Sì, se vuoi ve la spiego volentieri. Scilipoti è una persona che si occupava, si è sempre occupato di questioni che mi hanno sempre molto appassionato, e cioè delle medicine integrative, cioè di quella visione della vita che riguarda l'alimentazione e non solo l'alimentazione, che mi appassionano, che mi interessano. Scilipoti conosce molto bene l'agopuntura e ha fatto degli esperimenti anche in questo senso parecchio significativi. motivi. Per cui a me interessa l'agopuntore, il politico e la politica non mi interessa. Quindi il mio rapporto con Scilipoti è stato ed è esclusivamente legato a questi argomenti ed è un uomo che si è preoccupato di far conoscere in Parlamento appunto gli argomenti dei quali la medicina alternativa poco, che non vengono considerati come dovrebbero. Mi dispiace avervi deluso, ma purtroppo è un'immagine meravigliosa. È comicissimo nella sua serietà vedere insieme Pippo, il grande Pippo Franco, di cui io ho visto tutti i film. Io sono cresciuto con i film di Pippo Franco, andrebbero proiettati nelle scuole. Io faccio un appello alla signora Gelmini perché i film di Pippo Franco, Alvaro Vitali e tutti gli altri devono essere proiettati nelle scuole. Quindi però vedere insieme Pippo Franco e Scilipoti è una coppia comica, come dire, anche solo fisicamente, no? È divertente. È un po' comico, è un po' comico o no? Scilipoti. Certo che lo è. Nel senso che la mia vita, come vedete, è tutta comica, anche se involontariamente. Dunque siamo insomma, però insomma, che cosa vi devo dire? L'argomento è squisitamente questo, insomma. Ti appassiona l'olismo, la medicina alternativa. Non mi riguardano poco. Se parlate più forte, no, Mi sento meglio. Sì, dunque non te ne frega niente dei responsabili di tutto quello che è successo. Scilipoti, che si considera il salvatore dell'Italia per aver dato la fiducia a Berlusconi il 14 dicembre, sono cose di cui non ti importa nulla. Mi riguardano poco, mi riguardano in termini generici, in quanto italiano, insomma, no? Direttamente con Scilipoti non parliamo mai di politica. Te credo. Verrebbe da ridere. Ma vi conoscete con la signora Zanicchi? Con Pippo? Con Pippo. Sì, ci siamo visti qualche volta, vero Pippo? Come no? Come no? Anche abbiamo pure fatto qualche programma. Abbiamo insieme. Lavorato anche sì. Ma poi anche qualche cantagiro insieme quando eravamo un po' più piccoli. Sì, quando eravamo bambini. Ma Pippo, ma te lo sei mai aspettato al Parlamento europeo, Iva Zanicchi, in politica? Perché no? Voglio dire, abbiamo precedenti illustri, perché in fondo limitare o vedere le persone secondo la propria professione? Un artista ha forse una sensibilità in più, mi piacerebbe che al governo ci fossero degli artisti, ma accade poco. Tipo chi? Chi vedi come un primo ministro artista? Chi vedresti all'altezza della situazione? Tolto Reagan, diciamo, che è stato un grande attore. Tolto Reagan, anche perché si è tolto... No, in Italia. Non lo so, francamente non lo so, però le candidature... Ce n'abbiamo uno, però. E dall'altra, insomma, mi pare che ce ne siano, no? Berlusconi poi può essere anche classificato come artista, diciamo la verità. Dipende dai punti di vista, certamente ha cominciato come un artista, uno che canta, che racconta storie, che per alcuni è molto divertente, per altri è l'inverso. Molto democristiano, signor Pippo Franco, una cosa pazzesca, alla scuola di Andreotti. Sono un uomo libero, è molto diverso. No. Voi forse vorreste che io fossi di parte, in verità sono un estremista di centro. No. Estremista. Cantiamo insieme, mi scappa la pipì. Ma perché? Perché la cantava lui. E me che c'entra? Bellissima, la canti, la prego, per la mia infanzia. Sì, pronto? Sì. Se la ricorda quella, mi scappa la pipì. Se ve la ricordate voi, certo che me lo ricordo. Come faccio? Come faceva? La prego, è un ricordo d'infanzia. È un ricordo d'infanzia per Parenzo. Un ricordo d'infanzia, ma un ricordo di comunque di sempre, perché comunque vi scapperà la pipì. Anzi, in vecchiaia vi scappa di più. Grazie, a presto, pubblicità. Bravo, grazie anche a voi. Ciao Iva. Ciao caro, ciao. Siamo qui in diretta da Strasburgo, 800 24 0024, caro Parenzo. Sì, non è che siamo venuti in giro, siamo a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, European Parliament. Assolutamente, Stefano da Modena, buonasera. Buonasera, signor Cusciani, Stefano, dica. Parenzo, sì. Mi sentite? Sì. Ciao, sì, la sentiamo, dica pure. Allora, volevo sottoporvi una semplice domanda. In sostanza è questo, per essere brevi, io chiedo faccio questa domanda: è possibile che veramente tra giornalisti, opinionisti, trasmissioni radiofoniche, televisive, porta a porta, Ballarò, Infedele, dovunque ci sia la possibilità che veramente qualcuno pensi che l'italiano medio possa credere davvero che un Berlusconi non si possa difendere, diciamo, in questo momento nella sua posizione nei confronti della magistratura, dicendo che non era a conoscenza della posizione di escort delle persone che le venivano portate a casa dall'Ape Regina, dalla Terri, dalla Pinco Pallino, e che tutta mezza Italia praticamente sia in balia delle opinioni di una signora Begano, come si chiama, quell'altra persona, che vengono a dare la loro opinione difendendo il premier, dicendo: io sono la fidanzata, figuratevi se io li portavo le escort, anzi mi arrabbiavo quando chiedeva il numero di telefono. E tutto questo lo andiamo ad esprimere in trasmissioni, stampa, libri, ore e ore di questo tipo di considerazioni, che io capisco possa essere un diritto per lui nella difesa giuridica. Non ho capito lei cosa contesta, scusi. Contesta il fatto che Berlusconi si difenda dicendo che non sapeva che alcune di queste erano escort. No, non contesto questo. Questo è un suo diritto davanti al giudice. Un imputato si difende. Lei come può. Fa a dare della escort ad alcune signore? Ma infatti, cioè, non lo do. Alcune se lo danno da solo. Per me, è un mio parere. Sì. Per me è un insulto all'intelligenza dell'italiano medio andare a provare, anche solo a provare, a convincere la persona italiano medio che questo possa effettivamente essere successo. È una cosa ridicola. Cioè, che lui non si rendeva conto. Come andare a convincere che una Minetti sia nel Consiglio regionale Lombardia per meriti. È una cosa ridicola. Lei può intervistare migliaia di persone in mezzo alla strada, otterrà da tutti la stessa risposta. Da tutti. Va bene. Non c'è il minimo dubbio. Sì, allora la domanda la devo fare a voi. Cioè, sì, la faccio. Ma voi questo tipo di atteggiamento nei confronti dei vostri ascoltatori, spettatori, eccetera, ma ce l'avete soltanto perché avete bisogno di questi argomenti per tenere vive le vostre trasmissioni, o siete veramente convinti di una puttanata del genere? Io questo non capisco. Ma quale puttanata? Ma scusi, qual è la puttanata? Me lo la puttanata dovete spiegare. È Berlusconi. Guardi. Veramente allora, siete convinti che possa essere successo questo? Ma cioè cosa? Che possa essere successo? Che il nostro premier è praticamente un normalissimo personaggio che invitava gente a casa non sapendo che erano escort. Ma io non ci ho mai creduto. 800.000 euro a un Tarantini. Ma siamo pazzi, ma discutiamo. Ma io non ci ho mai creduto in vita mia neanche per 30 secondi. Ma io non ci credo. Dico voi perché siete voi che state lì. Ma se c'era Vespa o Lerner o Pinco Pallino o Floris, le facevo la stessa domanda, perché gli argomenti li tirate fuori nella stessa cazzo di maniera. No, scusi Stefano, ma io non ho, come lotta questo ascoltatore. Non ho capito una lotta. Cosa. Lei dice: nessuno può credere al fatto che Berlusconi non sapesse che quelle persone lì venivano lì per essere pagate, diciamo, no? Per essere pagate e offrire, che ne so, chi una presenza, chi una... Una prestazione. Una prestazione, anche, no? eccetera. Di vario titolo. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque che quelle persone erano lì per essere retribuite, giusto? Non andiamo a specificare perché cosa. Lei questo dice, non si può credere una cosa di questo tipo. Non si può. Può essere una difesa legittima di fronte a un giudice che tanto spero non ci creda e alla fine il condanni. Sì, ma c'entra in questo caso i reati? Scusi, lei la butta subito sui reati. Perché condanni perché cosa? Glielo spiego, perché per me è un lo sa per Berlusconi, lo sa Berlusconi, al di là della vicenda di Bari, sa a Milano perché cosa è indagato, sì. Per cui non è indagato per quello che ha fatto nella sua stanza da letto, o se, mente o meno, è sfruttamento della prostituzione minorile. Induzione alla prostituzione non è affatto indagato. Come è no? Sotto processo a Milano, non è indagato, è sotto processo a Milano. Scusi, quella è una conseguenza, Cruciani, per la prostituzione minorile. E per la telefonata alla signora, alla moglie di Mubarak. Certo, però è una conseguenza, perché se lei comincia a livello mediatico, intendo dire, a dire che per difendersi dall'accusa di prostituzione minorile, cominciamo a monte a dire che manco sapevo che erano escort quelli che mi portavano a casa, è chiaro che lui ha tutta la legittimità di fare questo percorso. Scusi, di difesa, Stefano, giuridica. Stefano, ma chi glielo toglie il diritto? Ho capito, se Stefano. Che mi accusano di essere un pappone, mi difendo dicendo che stavo lì per casa a guardare le stelle. Che c'entra? Ma questo è il mio diritto. Ma un conto è questo, un conto è che voi, giornalisti, vi dico no, senza, noi che, senza noi niente cosa, di personale, ovviamente, la categoria di tutti quelli che concorrono a creare l'opinione pubblica possa veramente pensare di prendere per culo l'italiano medio. Io se vado in giro a chiedere a mille persone, lei perché mi rispondono tutti nello stesso modo. Mi rispondono, ma che cazzo dici? Lo so perfettamente che Berlusconi è un puttaniere, ma che cavolo dici? Discutiamo se era ricattato, ricattabile o meno, ma uno che dà 800.000 euro a Tarantini per me ha già risposto. Poi dopo si difende dicendo, ma 800.000 euro di Berlusconi sono 80 euro tuoi. Allora va bene, non la finiamo mai. Questo premier e va bene così. Va bene Stefano, però mi sembra che lei parta da un pregiudizio su Berlusconi, e in generale lei dice una cosa, non si può credere a quello che dice Berlusconi quando pensa o quando afferma che di non sapere che erano escort e che i soldi dati a Tarantini sono per risollevare le sorti, diciamo, di una famiglia. No, io anch'io non ci credo, però come fa lei a dare la patente di escort alle persone che frequentano casa Berlusconi? Beh, perché qualcuno è escort per sua stessa missione. Continuiamo involontariamente, penso, perché le do il beneficio della buona fede, involontariamente continuiamo a offendere le intelligenze medie delle persone, quello che il codice civile definisce la diligenza del buon padre di famiglia. Lei la deve applicare a qualsiasi evento della vita normale. La vita normale prevede che le persone riescono a discernere quello che gli capita intorno, quello fa il premier, mica fa il contadino della campagna, no? E allora, ma che ci prendiamo in giro? Lui non sapeva che quelle persone erano lì per avere quel ruolo, ma siamo in certo. Va bene, no, io stavo discutendo davanti a me cittadino, ho capito, ma che l'ho sempre difeso, come fa la stessa cosa che faccio io. Non l'ha mai votato, ma giustamente lo difende fino alla fine in termini di legittimità di comportamenti. Io faccio così, no, con ma tutti. Io no. Però stavolta, Stefano, non ce la faccio proprio. No, stavolta. Ma certo, ma sì, neanche però io. Stefano, le dico che sì. Il fatto che lei dica ha pagato delle escort che venivano a casa mia, alcune, ma come le vuoi chiamare, tesoro mio direttorissimo, ma come le vogliamo chiamare? No, ma tu pensi che una ragazza ma come le vuoi chiamare? No, scusa, la signora D'Addario, a cui voglio bene, l'ho anche conosciuta, l'ho intervistata, definiamo la signora D'Addario. La signora D'Addario è una bravissima persona, in alcuni momenti della sua vita ha utilizzato il suo corpo per ottenere dei danari. Meraviglioso. Cosa significa questo? Vuol dire è una professione, la escort. Beh, è una professione che si fa di continuo per anni di seguito. Ha venduto il suo corpo per una se tu lo fai una volta sei già un escort a vita. Non è così. Come lo dobbiamo chiamare? Pubblicità, torniamo subito. Siamo qui 20:12, 800 24 00 24. Grazie a Stefano da Modena per la sua telefonata. Mario da Firenze, buonasera Mario. Buonasera Mario. Buonasera, Cucciani, mi senti? Abbassi la radio. Tolga il viva voce, amico mio. Tolga il viva voce, abbassi la radio, faccia qualcosa. So che è da un po' di tempo che è lì, però ci faccia questa cortesia. Prego, grazie. Avevo creduto di aver sbagliato radio. Sì. Perché? Perché? Ma perché? No, perché siccome ho sentito una vagonata di come diceva il... Sì, lei ha ancora la radio alta. Al viva voce. Tolga il volume. Veramente accosti, tolga il volume, abbassi il volume, spenga, metta la freccia a sinistra, accosti, no, ma non c'è bisogno, tolga il viva voce e parli. Non c'ho l'auricolare, non c'ho il viva voce. Va bene Mario, l'auricolare è uguale, lo avvicino di più, comunque va bene adesso. Pensavo di essere allo di 105, e qual è il problema, scusi, qua se ne fatte 10, se ne fatte 11, ho capito, ma sono cose che ci offre l'attualità, non è che ce le inventiamo noi, l'ascoltatore di prima, nel senso che sono mesi mesi che ci si dibatte su questa roba. Cioè l'Italia affonda. Chi è? Chi c'è, chi c'è accanto a lei? Cose. Ma chi c'è accanto a lei? Scusi Mario. No, è un, è un amico. Siamo in via. Lo faccia star zitto. Divertendo molto. Ci stavamo divertendo molto perché effettivamente. Ma me lo passi un attimo. Me lo passi un attimo. La Zanic è simpaticissima. Veramente. Ma me lo passi un attimo, Mario. La pipì è stata meravigliosa. Voglio dire. E allora? Due. Cioè, magari un po' di problemi. No. Ma voi non vi siete drogati, vero? Sono mesi, Cruciani. Ma io voglio sapere quest'uomo che forza che ha veramente. Sono. Ma non avete bevuto, vero? Battendo. Ma lì serve uno come Benigni, che è fantastico, la vulva 7,40, la figa, la patonza, la gnocchera, bellissima questa cosa. E la spread intanto vola a 400 punti sul Bund, giustamente. E che vuole quello noi? È una segata, quello va bene così. Ma chi ha detto che va bene così? Scusi, chi ha detto che va bene così? Come? No, dicevo semplicemente che lo spread a 400 punti è una segata in confronto. Ma vogliamo mettere sapere se ne ha fatte 8 o 11? Ma cazzo, ma non c'è paragone. E dunque? Come? Ma che bisognerebbe fare? Non ho capito. E quindi? No, niente, magari parlare d'altro ogni tanto. Ma parlare d'altro? Ma ha ragione l'ascoltatore di prima, non aveva torto, perché giustamente... Ma lei ascolta la trasmissione che precede la Zanzara ogni tanto, quando le capita? Focus Economia? Però lì non si può intervenire, non si può dire la nostra. Beh, può dire qualcosa su... A parte che lei lo sta dicendo, sta intervenendo, dunque volendo può parlare di qualsiasi argomento. Ma in cui la trasmissione si affrontano i temi di attualità economica in maniera corretta, competente, eccetera, eccetera. Dunque, cosa si aspetta qui da questi due cialtroni di Cruciani e Parenzo? Ha ragione l'ascoltatore di prima. Ormai non se ne può più. Cioè, io sono d'accordo. Ma veramente non diceva questo l'ascoltatore di prima. L'ascoltatore di prima è un escort, se non è un... Ma certo che sarà un escort, ma c'è. Ma chi se ne. Cioè, sono problemi importanti. Ma chi è? Chi se ne frega? Ma chi è quest'altro qui dietro? Quest'altro che fa il coro dietro. Ma chi è questo? Fa il verso dietro, una cosa spettacolare. Ma no, ma ora glielo passo, è un amico, aspetti. Sì, me lo passi. Pronto? Eccoci qua. Chi è? Come andiamo? Buonasera. Ma quanti siete in quella macchina? Sento male, dica pure. No, dica lei. Dica lei, è lei stava che facendo, disturba. Stava facendo il verso là dietro. Stava urlando delle cose pazzesche dietro. Di turno, che devo fare? Scusi, abbia pazienza. Sono qui scatta la querela, queste storie. Fate 105, la facciamo anche noi, no? Non, se non vi dispiace. Ma veramente, cosa c'entra livello, che facciamo 105? Scusi, con tutto il rispetto per 105, per carità. Piano. No. Sente piano. Intanto mandiamo il traffico, magari lo sentite di più. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara sempre diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo. Fra poco riprendiamo l'ascoltatore di prima, che era in autostrada, due ascoltatori nella stessa macchina, scatenati. Due molestatori, vuoi dire? Intanto ci ha raggiunto un altro ospite che fra poco vi presento, Gianluca intanto da Napoli ci chiama, buonasera Gianluca. Per la gioia del nostro ospite da Napoli chiamano, perché? Da Napoli. Che problema c'è? Napoli. Gianluca. Eccomi, buonasera. Dica. Ciao Gianni. Buonasera. Allora, innanzitutto è la terza volta che ci sentiamo e la prima da quando c'è Parenzo. Bene, bene. Sì. Allora, complimenti vivissimi per la trasmissione come sempre e volevo dire una cosa purtroppo molto molto seria. Sì, al di là diciamo delle cose insopportabili, escort eccetera eccetera, quello che veramente colpisce è la infinita tristezza, mi perdoni se uso questo termine. La infinita tristezza. Infinita tristezza di questi servi sciocchi che vanno nelle trasmissioni sulla stampa a difendere l'indifendibile. Questa è la realtà. Perché che Bagnasco, cioè a difendere Berlusconi, dice lei. L'indifendibile, perché che Bagnasco parlasse a questa classe politica e non al popolo italiano è abbastanza, anzi no, è talmente evidente. Che parlava di Berlusconi, insomma. Io ritengo che sostenere il contrario sia pressoché folle, più che impossibile. Diciamo che i porporati, i vescovi, quando parlano, non è che proprio... No, abbiamo... Cioè non indicano, non fanno mai nomi e cognomi. Non fanno mai nomi, ma i riferimenti erano estremamente chiari e palesi. Usano delle perifrasi, diciamo. Però mi pare di aver sentito ieri Scalfari che nelle pieghe del discorso di Bagnasco sarebbe stato anche chiamato l'articolo 54 della Costituzione, ovvero praticamente le cariche pubbliche, il decoro, eccetera, eccetera. Scalfari è il fondatore. Me ne rendo conto, io personalmente non l'ho sentito questo pezzo del discorso, quindi non so se sia vero, ma ritengo che può essere ragionevole che l'abbia detto. Comunque voglio dire, conclusione, io sono un ex elettore del PDL, sono sconcertato da questi atteggiamenti veramente sconfortanti, perché da un lato il PDL sostanzialmente si affanna a difendere un premier indifendibile in pubblico. In privato tutti quanti pensano che abbia chiuso, diciamo la verità, questa sono è la realtà. Con chiunque parli in privato del PDL ti dicono Berlusconi è finito, ha chiuso, eccetera. Questa è la realtà. Gianluca, però la politica è fatta anche di queste cose, non è solo servilismo, è fatta anche di queste cose. Cioè, pubblicamente non è che si dice Berlusconi è finito, in privato te lo dicono tutti. Grazie. 800 24 00 24, è con noi Francesco Speroni. Buonasera a tutti. Come? Francesco Enrico Speroni. Vabbè, d'accordo, Francesco Enrico. Sprechiamo, vai. Lega Nord, capogruppo, capo delegazione qui al Parlamento Europeo. Ma il signor Borghezio, quando è che lo rimettiamo in pista? Che l'avete è sospeso fino a fine ottobre. Fine ottobre, un po' eccessiva sta stanza. No, tre mesi, giusta. Normale. Allora, qualcuno vuole mettere in galera chi? Cos'era? Chi era? Milanese, eccetera, eccetera, addirittura la galera per 3 mesi di sospensione, dite che eccessiva. Ma no, insomma, ma non l'ha commesso nessuno. Per me non doveva essere mai sospeso. Ha detto delle cose molto forti. Ha detto delle cose forti, diciamo. Ma è una sanzione che avete combinato voi, ma mica. Lei pure protestò, ci sono delle sanzioni interne, come l'ordine dei medici, l'ordine degli avvocati, per così dire. Non è una sanzione gravissima, è una sanzione di un certo rilievo, perché quelle dichiarazioni che ha fatto sulla strage in Norvegia sono state inopportune. Ecco, diciamo quindi, subito una cosa invece opportuna. Basta con l'Italia, secessione. No, non è che noi vogliamo per forza secessione. Riteniamo che possa essere tra le opzioni. Insomma. Ma dove si sente meglio lei? Ma io mi trovo benissimo qui a Strasburgo. Mi trovo bene a Busto Arsizio, ma anche in tante altre parti del mondo, comprese altre parti perché d'Italia. Perché oggi pomeriggio, chiacchierando, lei mi ha detto una cosa, Giulio, io qui non mi annoio, però facciamo tante cose inutili. No, vabbè, allora, diciamo la verità. Diciamo la verità. Spero, allora, facciamo fate delle cose inutili qui o no? Si sente un po' secondo inutile? Secondo me facciamo tante cose inutili. Questo non vuol dire che non facciamo anche moltissime cose positive. Quindi non dipende solo da me, anche se come presidente di gruppo faccio parte della però conferenza per ora dei presidenti. No. L'80% del suo lavoro è inutile. Non lo so, non ho quantificato. 90 forse. No, diciamo, 99? No, per carità. 100. Direi 50% forse. Ma non del lavoro mio, è il lavoro del Parlamento proprio, perché risente forse di un'impostazione vecchia. Non dimentichiamo, questo non è nato come un vero Parlamento. Ma serve? A che serve questo? Perde un po' di tempo quando viene qui o no? Alla fine? Si sente di perdere un po' di tempo? Allora, molto tempo anche nel Parlamento nazionale o nel Consiglio comunale o nei tribunali. Sì, però quando un viene po' qui, dappertutto si perde, insomma. Ecco, forse la catena di montaggio non si perde tempo, ma in altre realtà il tempo lo si perde. Qui non è che facciamo un lavoro inutile, che buttiamo via il tempo, i soldi, eccetera. Potremmo razionalizzare e lavorare meglio. Ecco, questo è quello che voglio dire. Vabbè, intanto però un risultato l'ha raggiunto. Mi sembra che abbia superato un suo record personale in queste ore. No, per carità. Come no? Un record di macchine? No, assolutamente. Non ho superato nessun record. Sono riuscito a avere una certa velocità. È una cosa che mi piace. A quanto è arrivato con la sua macchina? Correndo nelle strade di Germania, ce lo dica! Sì, ma sembra che la cosa più importante di Speroni sia che... No. Ora parliamo nel dettaglio anche di tutte le riforme che avete approvato qui, tutti i disegni di legge. Sei impazzito. No. Voglio fare una cosa con Speroni tecnica. Nella direttiva Bolkestein. Ecco, nel dettaglio. Entriamo nella direttiva Bolkestein. Però prima ci dica, a quanto ha corso con la sua macchina in Germania? Ieri sera 3:10. Che è il suo record? No. No, quanto è? 3:16. Ma lo sappiamo tutti, 3:16. No. C'è anche su internet. A 3:10 ieri sera. Ieri sera. Dove? Fino a dove è arrivato? Sempre fino a quasi Friburgo. Quasi Friburgo, cioè quasi. Ha fatto quanti chilometri? Strasburgo-Friburgo, no, ha fatto. Beh, allora diciamo che da Strasburgo bisogna arrivare alla Germania a Appenweier, poi da Appenweier ci sono una decina di chilometri di lavori, poi si può accelerare, però riprendono, sì, i lavori. Dopo l'AR c'è una ventina di chilometri senza lavori e ovviamente ieri sera senza traffico. E quei 20 chilometri si, e quei 20 chilometri si riesce a arrivare. Ecco, ma non sono l'unico. Proprio ieri ho trovato un conoscente che da Stoccarda a Monaco è arrivato a 339. Quindi. È invidia. 339? Un conoscente, sì, tedesco? No, italiano. Un deputato? Deputato? No, no, un aviatore. Un aviatore? Un leghista pure lui magari? Non lo so, non abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di automobili. Un altro italiano? Ma quanti italiani ci sono che fanno questo scherzetto in Germania? Ma non sono solo italiani, l'ho già detto. Se uno vuole vedere questi che magari qualcuno giudica incoscienti, no, malati, vabbè, eccetera, vabbè, basta vedere il sito E39... in cifre 39 e39.de, sì, Domodossola Empoli, e li vede quelli che così gli piace mettere le fotografie del loro tachimetro. C'è anche lei? Ci sono anch'io, sì. Ah, lei mette le sue foto? No, una l'ho messa, una. No, non le, col tachimetro eccetera, col tachimetro. E 39. Non l'ho fatta io ovviamente la foto, perché sennò con una mano a 310 no, c'è qualcuno che è così appassionato che addirittura mette una ripresa automatica. Siamo la malattia libera, no? Ma non è che siamo la malattia, diciamo, allora l'esibizionismo uno... un po'. Questo è, beh, quello, allora parliamo per di un uomo eccezionale, dice, che è stato anche mio collega in Parlamento Europeo, sì, Messner, sì, il quale ha scalato tutti gli 8.000 del mondo senza ossigeno. Sì. Cos'è? Malattia, esibizionismo o semplicemente passione? Io la definirei passione. È la stessa cosa. Sì. È la stessa cosa. Io sono come Messner. No, mi sento, non sono Messner. Non mi il sento Messner delle automobili. Diciamo, ognuno ha le sue passioni. Magari certe sono più intelligenti, più produttive, però come posso Messner. Chiedere una cosa? Magari la mia è cretina, no, però rivendico anche... il diritto di fare delle però cose. Posso che non fare sono una domanda proprio politica? Sì. Perché se ecco, no, le faccio una domanda politica. Sentiamo. Lei si gliela posso fare, no? Intanto ci conosciamo da tempo, posso fargliela proprio? Mica posso impedire a uno di farmi una domanda? Lei si eccita. Cos'è la cosa che le eccita, no, la eccita, ecco, di più? Quello... cioè, ad esempio, tra il sesso. Beh, tra il sesso e una bella. È molto meglio il sesso che correre in macchina. Sì? Sì. Sì. Vabbè. E per Berlusconi, secondo lei, è meglio la politica? Chiedetelo a lui. Secondo lei, il politico o il sesso, secondo lei? Secondo lei, per Berlusconi, non così lo a, so, naso. Diciamo a che naso, diciamo. Ha una grandissima passione per la politica e a leggere le cronache, perché ovviamente... Anche per, anche, il, sesso. Anche per il sesso, ecco. Poi uno può avere anche più di una passione, insomma. Anch'io ho, per dire, il correre in macchina, soprattutto la politica. Poi il sesso non ne faccio una mania, per carità. No. No, finito, no, tutto finito. No, non è finito. No, beh, per carità, non volevo... ma che è, no, ho 65 anni, non ho subito, beh, operazioni in certe parti, quindi per cui penso... a 65 anni ancora uno si può difendere in maniera abbastanza, ecco, egregia, penso di sì. Diciamo, io, ecco, mentre per l'automobile così posso dire sono anche cose che si possono pubblicare, il sesso per me e soprattutto per mia moglie, ma sono perfettamente, no, no, beh, infatti, d'accordo, no, con lei, è una cosa assolutamente privata. No, no, ma infatti non vorrei... Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Francesco Speroni, Lega Nord, capogruppo qui a Strasburgo, già, con voi naturalmente. Già capo che... gabinetto del ministro Bossi. Vabbè. Con cui faremo il solito... Allora, se vogliamo dirla tutta, sono stato anche ministro. Per le riforme? Capo gabinetto, sì. Ma insomma, poi faremo il solito collegamento nostro con Bossi dalla Villa Reale di Monza. Solito collegamento alla Villa Reale, perché è sempre lì. Sarà finto. No, che finto. No. Beh, no, a quest'ora mica lì, no? Come no? La come Villa Reale di Monza. Diciamo che Bossi è un animale notturno, appunto, quindi potrebbe anche esserci. A dopo. Eccoci qui da Strasburgo, 800 24 00 24, con Francesco Speroni, Lega Nord, che qualche giorno fa ha fatto un viaggio con Berlusconi in aereo, no? O sbaglio? Ma era, diciamo, doveva andare a Roma e ho approfittato, come le regole consentono, dell'aereo su cui c'era il aereo di Stato Berlusconi. Sì, lui viaggia. Allora, diciamo, c'era anche il maggiordomo sull'aereo? No, non c'era il maggiordomo, c'era chi ha servito Coca-Cola, ecco, però, e caffè. Spiegami, ecco, perché non è che Berlusconi porta direttamente la borsa, la valigia, come noi, io e Cruciani, quando saliamo sull'aereo abbiamo la nostra valigia. Beh, no, ci sarà qualcuno che gliela, diciamo, porta, immagino. Beh, la valigia non so chi l'ha portata, io la mia borsa me la sono portata da solo, ecco, d'accordo. Quindi lui non lo so, era già lì. Com'era vestito lei, Speroni? Già che normale, come sempre, oppure un po'... No, allora, siccome dovevo andare in Parlamento, avevo una giacca, perché... Cravatta? Nel Parlamento... No, la cravatta no. Niente cravatta, Berlusconi non si è arrabbiato. Dovevo andare alla Camera perché... Alla Camera non è obbligatorio la cravatta, al Senato sì, qui in Parlamento Europeo ovviamente no. Infatti si veste con le maniche corte il nostro Speroni. Sì, sì, infatti io qui vesto come voglio, insomma ognuno è molto più libero di vestirsi, certo non si entra in canottiera. Ecco, ma insomma com'è stato questo viaggio con Berlusconi? Com'era Berlusconi? Chi eravate lei? Bossi? Bossi, Berlusconi e Cotta. E Cotta. Vabbè, è stato, abbiamo parlato ovviamente di politica. Sì, e poi lui che protestava per le intercettazioni. Vabbè, eccetera. Questo è una cosa normale. Cosa normale. E poi lui a un certo punto si è messo a fare. Si è messo a raccontare qualche barzelletta perché tutto sommato gli piace raccontare le barzellette. ma questo lo sanno tutti, insomma. Cioè, è una persona normale. No, certo, ma ne racconti una. Che barzellette racconta? Anche nuove, mi sembra, no? Beh, adesso non sono un esperto di barzellette, non posso sapere se fosse il campionario di Berlusconi. Per esempio, me ne dica una? Beh, sono un pochino osé, quindi è meglio. No, ma questa non è possibile. È la zanzara, assolutamente. Non si preoccupi, non si preoccupi. Parliamo d'altro. Via, no, questa qua. Una barra due barzellette di Berlusconi vanno dette. Viaggio di Speroni con Berlusconi. Ma che viaggio, figurarsi se è una cosa. In esclusiva alla zanzara. Ma che quanta gente. Allora, diciamone una, quella del Viagra che ci ha raccontato durante l'intervallo. Vabbè, il Viagra dicono come fanno i genovesi, che sono famosi per essere molto parsimoniosi, come del resto i miei concittadini. Quindi sì. Anche cioè, Berlusconi a un certo punto ha detto, ecco, loro consumano il Viagra, diciamo, ecco, tanto per, visto che non siamo in video, sì. Ne consumano un poco alla volta e vedono il risultato. Quando il risultato è raggiunto non consumano tutta l'intera cioè porzione. Come fanno? Come ha fatto Berlusconi? Con la mimica si è messo? Ovviamente con la mimica, ma cioè si è messo a fare come? Facciamolo capire. Come uno col gelato, ecco. Con uno col gelato, cioè leccano questo Viagra, questa pasticca di Viagra. Quindi ha fatto finta di avere in mano una pastiglietta e ha cominciato con la lingua a leccarlo, no? No, l'ha detto. Adesso. L'ha detto e poi no, che faceva? Ma non scendiamo in certi con lo sguardo che faceva e poi guardava in basso. Ci sono tante trasmissioni in televisione che possono essere meglio, più divertenti. Questa cosa qui io volevo solo sottolineare che anche in un momento grave eccetera eccetera il Presidente del Consiglio non perde il buon umore, ecco. Non è sempre tetro eccetera, questo mi preme sottolineare. L'altra barzelletta che la stava raccontando lei a un certo punto che è successo? Ma a un certo punto ho detto la so meglio io, l'ho raccontata lui. Ma qual era, che barzelletta era? Era sempre sui genovesi, ma anche qui non scendiamo nei particolari. Bisogna scendere nei particolari. Sulla politica scendo nei particolari, sulle barzellette magari no. Le barzellette sono fondamentali. Non sono un barzellettiere. Ormai sono praticamente... Poi è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, ascoltare la radio, ascoltare la trasmissione. Sì, vabbè, però. O anche tornando a casa si può sentire anche in macchina. No? Appunto, tu senti in macchina, sente una bella barzelletta. Ma diciamo, visto che siamo anche una di Berlusconi, una che è rimasta impressa, gliel'ho detta questa, quella del Genovese, quella del Viagra. Poi non ne ha raccontate più, ne ha raccontata una, non è che ha fatto tutto il viaggio a raccontare barzellette, insomma. Adesso non diciamo che Berlusconi, allora, però raccontiamo... fa il presidente a tempo perso, così dice lui, ma è chiaro che è stata una battuta, ma come sì. 8 donne su 11, ma neanche Rocco Siffredi ce la fa, insomma. Lei dice, magari Siffredi sì, questo è un paragone, magari un po'. Chiediamolo a Rocco, diciamo che... a Rocco. Comunque onorevole Speroni, quella del Viagra e del Genovese va raccontata bene, perché è una cosa che io non avevo mai sentito. E immaginare Berlusconi che fa, ecco, allora magari ve la racconto in televisione, ma qui non posso, no. Perché non viene bene, è la radio. È la radio, va bene, va bene. Allora stesso. Ci sono delle barzellette che vengono bene, certo. Quando finiamo qua ve ne racconto un'altra, che anche qui devo dirla, deve fare un po' di mimica, comunque la cosa anche è questa, la radio è un ottimo mezzo di diffusione, ma ha qualche limite, certo, non c'è dubbio. Comunque Berlusconi a un certo punto diceva i genovesi, ma no, era l'inizio, com'era a barzelletta sui genovesi, ma poteva anche parlare che sia degli scozzesi o di altri, vabbè, sì, quelli che sono considerati tirchi, sì, diciamo, ripeto, no? Anche Busto Arsizio ha la fama di essere tirchi, com'è, sapete non come è, usano, secondo me non è molto vero, però certo. Ci sono queste fame, sono sapete come di... usano i Viagra genovesi, così diceva, sì, Berlusconi, ma l'ho no? spiegato, no? Poi prendeva sta pasticca così in bocca no, che faceva, non esageriamo. Non ho mai visto imbarazzato l'onorevole Speroni. No, non sono imbarazzato. Vabbè, torniamo alle cose meno serie. Il ministro Romano. Almeno serie. Il ministro perché Romano. Salvate il ministro Romano? Allora, salvate. È una questione di sfiducia. È una questione politica. Oh. Cioè, fosse per lei? Si dovrebbe dimettere almeno. Allora, se lui vuole dimettersi, può dimettersi. Vabbè, ci farebbe un favore al governo in generale se si dimette da solo. Per diciamo, modi. Ci toglierebbe da un certo imbarazzo, perché un po' di imbarazzo politico c'è. Ma questo è lo stesso. Posso abbracciarla? soprattutto qui al Parlamento Europeo, per carità. Perché? E qui con tutte c'è l'associazione dei froci, delle lesbiche. No! Come dei froci? Non dica così, c'è però. L'intergruppo. Omosessuali, c'è l'intergruppo dei. Allora. Froci, le ha detto, sì. Vabbè, uso questo tema per farmi capire dalla gente. Ma come dalla gente? No, ma dica, è volgare. È un insulto. Ma ha rivendicato la possibilità di utilizzare quella parola. È un termine, dica omosessuale. È un termine che ho imparato a Roma. Ma è dispregiativo. Da noi diciamo culatum, vabbè. Ma è peggio uguale. Ancora, è dispregiativo. E dunque, se ma dipende dall'accezione, diciamo. Dall'accezione? Cioè, possiamo dire diversamente orientati in campo sessuale. Omosessuali. Omosessuali, vabbè. Ma non solo sono, perché qui c'hanno anche i transgender, allora? In questo intergruppo. E dov'è il problema? Che questi non si sa bene da che parte stanno, ovviamente. E dunque? No, voglio dire, siccome io sono eterosessuale, non vorrei creare confusione, tutto qua. Con tutto il rispetto per chi la pensa e si comporta diversamente da me, insomma. Sono un po' cioè, diversi, come se però. Io dico, un comunista, non è che è offensivo, non voglio essere scambiato per un comunista. Ma sono diversi qua. Da lei, secondo me. Sono diversi. Diciamo, hanno un orientamento sessuale diverso questo dal non mio. C'è dubbio. Cioè, sono normali? Sì. Ecco, allora, cos'è la normalità? Se uno dice la maggior parte della gente non si comporta con le loro. Sì. Statisticamente. Vabbè, sì, questo. Però, questo dire che uno è normale... Ecco, torniamo, vabbè, voglio tornarci io. Sì. Mi metto sulla graticola. È normale uno che va oltre 300 all'ora in autostrada? No, perché la maggior parte della gente non ci va, o perché non è capace, o perché non ha l'automobile, o perché ci sono i limiti, eccetera. Dunque, non quindi, sono normali. Vuol dire, ma uno che va a scalare gli 8000 è normale? No, è un atleta quello, ma chi c'è? Uno che si lancia col paripendio è normale? Cioè, non è che quello che fa una minoranza è una cosa anormale. Quindi bisogna mettersi d'accordo anche cosa vuol dire il tema normale. Normalità. L'omosessuale, visto che la maggior parte della gente è etero, costituisce una minoranza che merita tutto il rispetto, eccetera. Io non appartengo a questa minoranza. E lo vuole puntualizzare? Non è che lo voglio puntualizzare, voglio semplicemente dirlo. Vabbè. Come appunto posso dire che non sono né comunista e non sono neanche iscritto al PDL. Ecco. No, perché... no, certo, vero. No. Non eravamo arrivati a questo però per il ministro Romano. Ecco. Sarebbe meglio se si facesse da parte. Allora, ovviamente ci sono degli imbarazzi, perché anche l'opinione pubblica non sempre riesce a capire tutte le cose. Non tutti sono avvocati, non tutti conoscono il diritto, queste cose qua. Cioè, il ministro Romano è sotto indagine. È un indagato per non mafia. Non è ancora un imputato, cioè è proprio il primo gradino. Quando si comincia un'indagine giudiziaria, uno viene indagato, è scritto sul registro. Ha chiesto l'imputazione, ha chiesto il GIL. Il PM è stato obbligato dal GIB a chiedere l'imputazione. Tecnicamente è un indagato. È un indagato per mafia. Può ripeterlo, per mafia potrebbe ma anche no, essere... perché voi dite sempre via la mafia dalla Padania, sì, via. Adesso ci avete. Non è che siete non è che sono un mafioso. Uno e due. Ma non è un mafioso. Ma certo che non è un mafioso. E no, uno e due, due amici, direttorissimo Cruciani e signor Francesco Riccheroni. E no, non mi coglionate mica a questo punto. Perché Penati si è dimesso dalla vicepresidenza del Consiglio regionale della Lombardia, carica istituzionale, allora? Per un reato ben diverso. Ma Scajola si è dimesso che non aveva niente di mafia. Aveva semplicemente detto una cosa grave, insomma. No, la prima volta si è dimesso due volte. Per l'appartamento affacciato sul Colosseo, perché qualcuno ha pagato una parte e lui non sa. E lui dice di non saperlo. Comunque si è dimesso. Altra sensibilità. Faccio un appello al ministro Romano: dica, ministro, ci tolga dall'imbarazzo, si dimetta. E poi c'è un altro responsabile che andrà a fare il ministro dell'agricoltura. Vabbè, dov'è il problema? Perché il problema dica che si dimetta. No, perché il problema è se Romano in coscienza si sente innocente, non ha commesso quello che qualcuno questo lo dicono tutti, però, gli addebita. No, non è vero, perché ripeto, Scajola si è dimesso. Sì, dicendo che era innocente. Però, ma può continuare a fare il deputato. E l'interim lo prende Bossi. L'interim all'agricoltura lo prende Bossi. Vabbè. Le piacerebbe questo? No, sinceramente, anche perché non so se Bossi sia veramente competente. Lei voterebbe la fiducia al ministro Romano? Forse se fosse un parlamentare nazionale di maggioranza, voterei la fiducia a un ministro, ci mancherebbe pure, perché è molto diverso dall'autorizzazione all'arresto. Un po' turandosi il naso? Ma magari anche non volontariamente, ma quando si come è in una se la fa turare da qualcuno, che vuol dire? No, vabbè, mi sono espresso male. Diciamo, magari è una cosa che non mi piacerebbe, ma quando si è in una coalizione non si fanno solo le cose che piacciono. Ecco, questo è il discorso. Cioè, quindi qui state salvando il governo, perché sennò i responsabili se ne vanno. Allora, diciamolo chiaramente. Tutta la colpa, se vogliamo, si chiama Gianfranco Fini. Allora è nato prima l'uovo o la gallina? Se non fosse uscito la maggioranza, non ci sarebbe stato bisogno dei responsabili. Se non ci sarebbe stato bisogno dei responsabili, neanche di Romano. Ecco, tutto qua. I responsabili, mi dica un po', lei come li si immagina? Non so, non li ho mai visti. Come sono? Qui non sono mai venuti. Che sta lì attaccata alla poltrona, gente che vuole arraffare un seggio. Mi dica qualcosa. La mia impressione è quella. Cioè qua? Che vogliono le poltrone, però è anche normale che se uno sta in maggioranza vuole i posti di governo, perché sennò cosa diavolo sta a fare in maggioranza, sennò se ne va all'opposizione. Ma lo vuole in Padania il ministro Romano? Fare un bel giro. Il ministro Romano in visita in Padania. Beh, se visitasse la Padania forse non sarei tra quelli che vanno a applaudirlo, ecco. C'è un tranquillamente po' di... C'è un po' di differenza tra me e il ministro Romano. Comunque fa parte della maggioranza, sostiene il governo, è un alleato e c'è un dovere di sostenere gli alleati. Se no, facciamo come Fini è stato eletto con i voti anche nostri, con i voti anche mio, diciamo, perché alla fine la coalizione prende il voto di tutto e poi se ne piglia e se ne va da un'altra parte. Questa è veramente la cosa che mi fa indignare. Pare che Romano però abbia fatto dei favori anche alla Lega sulle quote latte. Comunque abbiamo traffico, quello è un altro discorso. Vabbè. Traffico. Siamo qui 800 24 00 24. Edoardo da Roma, buonasera Edoardo? No, Leonardo da Palermo. Comunque, dica. Sì, sono qui, buonasera. Pronto, mi sente? No, sì, Leonardo, Parenzo sta parlando no, da solo. No, dicevo che è una bella trasmissione, ricca di cose, ospiti. Ma smettila, Leonardo, dica. È bravo. Con mia moglie vi sentiamo quasi tutte le sere, da tanti Bene, anni. Grazie, dica. Però volevo precisare che secondo me abbiamo un Presidente del Consiglio che è come se fosse un reo confesso, perché anni fa è stato condannato il suo avvocato Previti per corruzione, per reati di corruzione contro la giustizia. Ed è presumibile che dietro ci fosse lui. Poi è stato condannato Mills per corruzione pure, è sicuramente Vabbè, dietro. Insomma, adesso non ci faccia tutto l'elenco adesso, dei procedimenti in cui è coinvolto Berlusconi. Su, Leonardo, abbia pazienza. Ma il problema è che diciamo questo signore è come se fosse un reo confesso. Per arrestarlo forse ci manca solo che viene trovato, non so, per la strada, viene preso in flagranza di reato. Cioè, quindi è necessario che si prendano le distanze, perché non possiamo essere governati da uno che ha tutti questi reati e che, diciamo, per me è come se fosse un reconfesso, perché un uomo politico così importante che è legato a questi eventi criminosi, diciamo, non è un fatto di corruzione, di tangenti, che è sempre successo. Grazie Leonardo. Andiamo a Firenze. Mario. Ah, Mario, è quello di prima. Ma è ancora in macchina? Ma purtroppo sì, perché noi ci siamo di quelli che ci facciamo il mazzo, hai capito, Cruciani? Ma quanto andà? Che fate di mestiere, scusi? No, andiamo piano, guarda, ora siamo veramente a 80 all'ora in coda sulla Cisa, quindi nessun problema. Solita coda sulla Cisa, insomma, niente di nuovo. Sì. No, ma allora, Parenzo! C'è Parenzo? Eccolo! Ma amico! Parenzo, tu hai fatto bingo! Hai fatto bingo! Io credo che lei state bene, sì. Sì, stiamo bene. Non siete messi in macchina avendo bevuto. No, ma sai cosa c'è? Siamo un po' indignati. Mi è piaciuto anche l'ascoltatore successivo che parlava dell'indifendibile. Dice perché giustamente ha ragione, è difendibile. Ma quando quei due tozzi si sono scambiati la telefonata dicendo: sai, anche noi abbiamo la nostra banca. E dopo dicevano: la telefonata fra me. Così. Si sente poco, siamo sulla Cisa. Grazie Mario, grazie. 800 24 00 24. Ma secondo lei Cosentino, Brancher, Bertolaso, Romano, Papa, Milanese, Verdini, Speroni, solo due parole. Ora basta. No. Ora basta. Due parole le dico io. Ora basta. No, due parole le dico io. Ora basta. No, due parole dico io. Tedesco e Penati. Vabbè, chi ce l'ha più lungo e chi ce l'ha più corto? Ma cosa c'entra? Cosentino, Brancher, Bertolaso, Romano, Papa, Milanese, Verdini. Ma cos'altro deve succedere? Ma chi sono? Delinquenti? Chi ha enunciato? Cosentino, una lista di delinquenti? Brancher, Bertolaso, Romano. È impazzito. Allora, se vogliamo vedere, Brancher è stato effettivamente condannato, esatto, non in via definitiva, ma però si è dimesso addirittura prima di essere condannato. Vabbè, adesso, ecco, non volevo restare con la lista. Vogliamo mettere ministro per pochi secondi, peraltro. Pochi giorni. Sì. Scaiola, idem. Vi piace questa cosa qui, questa lista qui? O si poteva fare meglio? Certo che si poteva fare meglio. Infatti qualche volta dico che magari in certi partiti sembra che prenda la fedina penale, se uno ce l'ha pulita lo mettono da parte, ecco. Ma chi? Il PDL? Però, Berlusconi? È una battuta, perché però, contraddice, battuta, sì, ma contraddice tutto quello che ho detto fino adesso, perché tutte queste persone non hanno ancora la fedina penale però sporca, perché non sono stati condannati in via definitiva. Però la sua impressione è che spesso, ma l'impressione PDL... non solo mia, ecco, diciamo c'è una certa vicinanza a persone che hanno questi problemi con la giustizia. Poi può anche essere che sia la giustizia che va a cercarsi. Ma come mai? Vicinanza perché? Perché c'è questa vicinanza, secondo me? Fallo sapere. C'è una passione per Berlusconi, cioè, la cosa... che ha problemi con la giustizia? No, la cosa strana è questa, che siamo alleati ormai da tantissimi anni con Berlusconi. Io stesso sono stato ministro nel primo governo di Berlusconi, e chissà come, proprio marginale qualche assessore di paesino, la Lega non ha neanche indagati, mentre il PDL è pieno. Ecco, qui in effetti c'è qualcosa di anomalo. Magari, beh, qual è la cosa anomala? Un DNA diverso? O uno può dire o si sbagliano a scegliere le persone, o forse c'è veramente un accanimento di certi magistrati contro il più grande partito italiano. Secondo ecco. Lei com'è? Secondo lei? Diciamo. Non riesco a capirlo, perché poi non si arriva quasi mai alla fine. In Italia ancora non sappiamo cosa è successo per la strage di Bologna. Ogni tanto i processi sulla tangente arrivano alla fine, non è che non arriva. No, non arriva quasi mai, perché vengono prescritti. Sì. I testimoni non si trovano più, tutte queste cose qui. Cioè Berlusconi di processi ne ha avuti l'ira di Dio, no? Sì. Forse è il primo ministro più processato del mondo. Sì. Ecco, non è mai stato condannato una volta. Beh, per vari motivi, certo. Motivi processuali di qua di là. Però, avrà degli ottimi avvocati. Se lui stesso dice condanna, c'è definitiva. No, condanna, c'è definitiva. Una condanna definitiva. Quale? No, non c'è, devo andare a definire. Falsa testimonianza, ma non importa. Mi sembra di no. Processo di Venezia. Mi sembra di no. Iscrizione alla tessera P2, ma è un altro problema. Comunque, lui dice, ho speso 400 milioni di avvocati, se sono pure bravi, se prendono tutti questi soldi. Scusi, però l'exit strategy per Berlusconi, qual è secondo te? C'è un salvacondo, c'è una possibilità di chiuderla con no, un salvacondo? No, ma non è un Gheddafi che se lo pigliano, lo sbranano. Lui non ha bisogno di nessun salvacondotto, anche perché in Italia non ci può essere salvacondotto. Il salvacondotto che so io l'hanno dato a Nixon negli Stati Uniti, tanto per parlare di politici di qualche altra parte. Lì si può, perché non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Allora, se Berlusconi fosse veramente colpevole, prima o poi sarà condannato. Se non è colpevole, è giusto che rimanga lì a fare Presidente del Consiglio. Ma è vero che più rimane, più tira a fondo anche voi? No? C'è un certo effetto, ma non è solo quello, la crisi, che sono l'Italia, gli enti locali. Però mi dica eccetera, la verità, più eccetera. Rimane e più la Lega, anche la Lega è danneggiata. No, non è così. Nel senso, non è Berlusconi, è tutta questa situazione da cui è veramente difficile uscire, perché proprio in Europa si riesce a vedere. La ecco, qui siamo in Francia, le ultime elezioni locali per... il partito di governo sono andate male. Sì, vabbè, tanto tutti i partiti al governo, tutti però... ecco, l'unico forse fino adesso è stato Berlusconi che ha resistito, che ha resistito tranne marginalmente le ultime elezioni. Un po' fuori dall'Europa, anche lì più o meno la stessa cosa, vediamo Obama come sta calando, forse gli unici sono i governanti turchi che alle ultime elezioni hanno confermato... Senta, Napolitano con l'associazione non è molto contento, signor Napolitano. Allora, ha il suo ruolo e le sue idee, penso che in un paese democratico ognuno possa avere idee diverse anche da certe idee del Presidente della Repubblica. Cioè chi conta di più, il popolo del nord o il napolitano? Ma direi conta di più il popolo, non del nord o del sud, conta di più il popolo. Dunque, se il popolo vuole la secessione, napolitano si deve arrendere, di conto. Se il popolo vorrà la secessione, allora, se ne faccia una ragione. Qui è diverso, perché non siamo ai tempi in cui c'erano le rivoluzioni, eccetera, eccetera. A un certo punto ci sono dei vincoli costituzionali, può darsi anche che il popolo voglia certe cose e non si possano avere. Quanto si è annoiato oggi lei? Da quando è qui a Strasburgo, questi due giorni, quanto si è annoiato? Dica la verità. No, diciamo, ieri sono arrivato poche ore. Direi che proprio oggi non mi sono annoiato. Magari posso dire mi sono un po' affaticato, non più di tanto, però avete concluso poco, pochissimo. Non mi sono avete annoiato. Poco avete concluso, questo qui. Allora, dobbiamo chiudere però. Dobbiamo chiudere. Il meccanismo dei lavori parlamentari. Ma la Merkel, adesso purtroppo dobbiamo chiudere, non possiamo spiegare, un'altra volta lo faremo. Ma circola questa storia dell'intercettazione di Berlusconi su la Merkel, culona inchiavabile? Circola un po' qui, se ne parla? Vabbè, diciamo che non è un'espressione molto elegante, ecco. Però ancora però? Non si sa se la... Non lo so se l'ha detto o no. I deputati tedeschi che le dicono? Nessuno mi ha detto niente. Nessuno nulla. Nessuno nulla. Dobbiamo chiudere, a domani. Sempre da Strasburgo. Sempre da qui, se Dio... Se... No, se la... le linee permettono. Se le linee a domani, a domani. Il satellite ormai è già caduto, quindi... Cruciale vaffanculo, non sei Cruciale. E la patonza deve girare. Radio 24. La passione si sente.